Nausicaa nella Valle della Rete. Buongiorno da Antonio Dini e benvenuti a un appuntamento, a un incontro un po' particolare come viene sottolineato anche dalla musica che avete sentito come introduzione, dal nome Nausicaa nella Valle della Rete e soprattutto dalla musica che state sentendo in questo momento. Nausicaa, lo diciamo subito per chiarezza, non è la figlia di Alcino, il re dei Feaci che accolse Ulisse naufrago tanto e tanto tempo fa, è qualcosa di completamente diverso. Si tratta invece di un'opera a cartoni animati prodotta in Giappone nel lontano 1984, fatta da Hayao Miyazaki, quello che è considerato il Walt Disney giapponese. E il senso, l'opera di questa trasmissione è quella di andare a scovare, a scoprire, quelli che sono i contenuti alternativi, quelle che sono le possibilità differenti che la rete, ma anche la cultura un po' laterale, ci può offrire. Nausicaa era una favola letteralmente ambientalista, che postulava l'esistenza di una ragazza in un mondo distrutto da un conflitto che lottava contro le aberrazioni degli uomini in una natura apparentemente cattiva ma che in realtà stava cercando di rinnovarsi. Abbiamo un grandissimo debito, noi italiani, nei confronti dell'opera di Miyazaki, anche perché la Rai aveva acquistato i diritti per questo film dell'84 e l'aveva trasmesso un'unica volta a Pasqua nel 1988, facendocelo assolutamente dimenticare. E questa è una colpa anche abbastanza grave, perché ha fatto dimenticare quello che viene considerato, come dicevo prima, il Walt Disney giapponese, tant'è che proprio la Walt Disney ha acquistato recentemente i diritti di buona parte delle opere di Miyazaki e le sta rieditando per il mercato americano. Nelle opere di Miyazaki, alcune sconosciute in Italia come Princess Mononoke oppure Castle in the Sky, altre invece sono ben conosciute. Si tratta del Castello di Cagliostro, uno dei film di Lupin III per il quale Miyazaki ha curato la regia, ma si tratta anche della serie di Conan, Il ragazzo del futuro, oppure si tratta di realizzazioni dalle quali sono state tratte addirittura videogiochi. Mononoke Hime, Princess Mononoke, cioè, è una di queste, ma ancora My Neighbor Totoro o Kiki's Delivery Service sono due delle realizzazioni dalla quale l'industria del videogame e dell'intrattenimento ha cercato di dare una propria dimensione. Andiamo a vedere, andiamo ad analizzare invece su internet quali sono i possibili punti di riferimento per cercare l'opera di Miyazaki. Il primo, il più importante e forse il meglio organizzato è all'indirizzo www.nausicaa.net. Un altro indirizzo abbastanza importante, abbastanza interessante, è su Geocities, si tratta di www.geocities.com/tokyo/flats/1345. Un altro sempre su Geocities, sempre nell'area Tokyo, però questa volta /bay/6800/Nausicaa, tratta i quattro film di animazione principale del nostro autore, Laputa, Totoro, Nausicaa e Kiki Delivery Service. Quattro titoli dei quali la Walt Disney, come dicevo prima, ha acquistato dalla Tokuma, la società distributrice ai diritti, e che forse, se conoscete l'inglese, avete perlomeno la possibilità di recuperarli così, visto che, a quanto pare, la Rai non ha intenzione di fare diversamente. E mentre scorrono in sottofondo le note, come ricordavo prima, del soundtrack originale di Nausicaa della Valle del Vento, Kaze no Tani no Nausicaa, che ispira questa trasmissione, ispira il suo desiderio di andare a vagare, visto che siamo in tema di presentazioni, prima di un ospite graditissimo, che poi un ospite non è perché partecipa a questa trasmissione, risentiamo per una volta qualche cosa di diverso, ovvero sia la nostra sigla, che ha una storia sempre giapponese ma assolutamente lontana. Si tratta della sigla originale giapponese del cartone animato Vultus 5, che è stato trasmesso anche in Italia con tutt'altra sigla. E in via assolutamente eccezionale e anche originale, ce la possiamo risentire per un momento. Satoru Arashi なくこともたとえ大波荒れるとも漕ぎ出そう戦いの海へ飛び込もう戦いの渦へ見つめ合う瞳と瞳ぬくもりを信じ合う五人の仲間 Tutt'altra musica e tutt'altra sensazione quella che arriva in questo momento, una musica al femminile, la sigla sempre di un altro cartone animato, si tratta di Occhi di Gatto, perché introduce quella che è la compagna del nostro viaggio, si tratta di Giovanna Giagoni. Ciao Giovanna. Ciao Antonio. Giovanna che si occupa di una cosa che seguirà fra breve, cioè della nostra rubrica specializzata nei videogiochi che analizza sistematicamente tutto quello che succede nel mondo dell'intrattenimento ludico. Come cominciamo? Cominciamo nel parlare di console, console PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast e Dolphin, appositamente provati da Riccardo per noi. Che è arrivato in un posto lontanissimo, sì, tra parentesi. A Tokyo. A Tokyo, dove si è tenuto il Tokyo Game Show, che è uno degli appuntamenti feristici più importanti, forse il più importante dedicato al mondo dei videogiochi. Allora Giovanna, io adesso ti lascio il microfono e ci racconti che cosa è successo. Ciao. Ciao. Siamo ormai alle soglie del 2000 e molti di voi si staranno chiedendo che cosa ci riserverà il futuro per quanto riguarda il mercato videoludico. In questi ultimi tempi abbiamo visto cambiare radicalmente l'idea di videogames, che fino alla metà degli anni 90 erano quasi esclusivamente in 2D, e cioè erano composti da una serie di figure disegnate che si muovevano in ambienti piatti, potendosi spostare solo a destra e a sinistra, senza poter interagire in alcun modo con la profondità del fondale, insomma con la terza dimensione. Probabilmente le nuove generazioni neppure si ricordano come sono nati i videogiochi, Pac-Man, Space Invaders, eccetera, eccetera, e quanto faticosa e graduale ne sia stata l'evoluzione. I giovanissimi sono abituati a muoversi in ambienti 3D e da una grafica molto dettagliata. È stato l'affermarsi sul mercato mondiale della Sony PlayStation a cambiare il modo di giocare e soprattutto a rendere i videogames accessibili a tutti, tanto che adesso le console conoscono uno splendore che sembrava ormai dimenticato, dai tempi dell'Atari 2600 nei lontani anni 80. Cosa succederà adesso? Molti credono che la naturale evoluzione degli eventi farà sì che alla PlayStation succeda la PlayStation 2 e che tutti vivranno felici e contenti. Chissà, ogni macchina ha una storia a sé stante, proprio come i membri di una famiglia. Senza dubbio la Play ha spianato la strada al suo successore, ma sarà quest'ultimo degno di seguire le sue orme? La cosa certa è che la Sony sta facendo una campagna pubblicitaria molto accurata e capillare. Il fatto che la nuova console si chiami proprio Play 2 lascia intendere che le intenzioni sono di bissare il successo di quella attuale. E nell'aria volano cifre incredibili come 18 milioni di poligoni su schermo. Si può rifare Toy Story con la Play 2. Ma qual è la verità? Com'è veramente la PlayStation 2? Al Tokyo Game Show, che si è tenuto qualche giorno fa in Giappone, si è finalmente aperto un sipario e sono stati mostrati i primi titoli giocabili per la nuova nata della Sony. Stiamo parlando niente meno che di Tekken Tag e di GT 2000, due dei nomi che hanno portato la PlayStation alla fama attuale. Com'erano? Beh, che ci credete o no, dopo aver visto i giochi in uscita per Dreamcast della Sega, che fra parentesi dovrebbe uscire a settimane anche in Europa, la prima impressione è stata quella che si sarebbe potuto fare molto di più. Ok, le strutture poligonali che popolavano gli ambienti mostrati erano molto più complesse e dettagliate, ma l'effetto complessivo era confuso e pasticciato a causa della bassa risoluzione dello schermo, forse 320x200? La stessa Play attuale è la metà di quella del Dreamcast o di un qualsiasi PC. Senza soffermarsi su spiegazioni tecniche, sorge un dubbio. E se questa volta la Sony ha giocato male le sue carte, proprio come la Nintendo 4 anni fa e la Commodore 10 anni prima? Speriamo che sia stata solo un'impressione, altrimenti questa macchina ha un tallone d'Achille che forse potrebbe essere la sua condanna. Non dimentichiamo che farà la sua comparsa la nuova console della Nintendo, il Dolphin. Le specifiche sono eccellenti e chissà che non sia proprio quest'ultima a dominare il panorama videoludico dell'inizio millennio. La partita è tutta da giocare. Gaikokuji, i nuovi barbari dell'era digitale. Finita una rubrichetta, ne comincia subito un'altra dedicata a quello che i nuovi barbari stanno scoprendo nell'era digitale. Una notizia che viene dalla Gran Bretagna. I responsabili della sicurezza dell'aeroporto di Gloucestershire, una piccola aerostazione, hanno trovato un nuovo modo per tenere alla larga gli uccelli dalle piste. Tina Turner. Prima, spiega Ron Johnson, il capo dei vigili del fuoco dell'aeroporto, usavamo delle registrazioni di grida di uccelli disperati, però non funzionavano molto. Tutt'altro risultato con Tina Turner. Gaikokuji, i nuovi barbari dell'era digitale. E dopo aver esaurito anche quella che è la nostra rubrichetta, siamo arrivati al termine praticamente della nostra trasmissione. C'è giusto il tempo per farci due saluti, ma soprattutto per lanciare quello che sarà il tema della stessa settimana, stessa ora, stessa emittente. Erano anni che lo volevo dire così come fanno in televisione, finalmente lo posso fare. E il tema della prossima settimana, se mi permettete anche la battutaccia di prima, è relativa a uno scrittore di fantascienza che è stato accusato di essere troppo di destra e contemporaneamente troppo di sinistra. Si tratta di Heinlein, che ha scritto due libri, Straniero in terra straniera, troppo di sinistra, e Fanteria dello spazio, Starship Trooper, troppo di destra. Ci concentreremo sul titolo troppo di destra perché dovete sapere che quel titolo ha lanciato tutta una serie di cose importantissime, e fra queste ce n'è una che è particolarmente importante. Dopo aver salutato Giovanna, ciao Giovanna, ciao Antonio, e che rincontreremo la prossima settimana auspicabilmente come sempre, sentiamo perché è troppo di destra Heinlein e che cosa ha lanciato, che vale la pena di scoprirlo. Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter Ray. Eccoli che ci assalgono, non aver paura mai, perché qui c'è chi pensa a te. Nausicaa nella valle della rete.